Allora Elena, bisognerebbe scegliere sempre queste sedi per le conferenze stampa e aspettarci delle giornate con un'accoglienza tale a livello di temperatura, di sole, villaldini. Com'è che Bologna estate parte così quest'anno? Sì, come dici, abbiamo bisogno di vedute e di sguardi verso la città, dalla città e per la città. E certamente villaldini, in cui presentiamo appunto la programmazione che ci aspetta dal 19 maggio fino al 4 ottobre di Bologna Estate, certamente rappresenta proprio questo. È anche un luogo pasoliniano che quest'anno avrà un cuore importante di progetti, di spettacoli con Archivio Z e tanti ospiti, ed è un luogo appunto caro alla città e che anche racconta di come vogliamo prenderci cura di questo luogo e dei luoghi della città, vivendo anche lo spazio pubblico e lo spazio urbano come grande spazio culturale di Bologna e dell'area metropolitana, un'unica grande città culturale. Beh, questi sono propositi di cui Bologna come palcoscenico esteso ne dà ampia possibilità. Onore al merito a chi valorizza queste microsensazioni, non sempre evidenti, ma che se di ricerca possono portare grandissime sensazioni. Ti chiedevo, Elena, anche entrando un pochettino così a vol d'uccello nel programma, solito programma eterogeneo, completo, tra tante realtà artistiche di contenuto quanto mai vario, immagino. Sì, è un'estate quest'anno particolarmente ricca di programmazioni, si rafforza la programmazione sia per i luoghi che vengono coinvolti, sia per la vastità proprio degli appuntamenti con tantissimi artisti internazionali, nazionali, e andiamo a rafforzare anche quella comunità culturale, quella città culturale abitata dal pubblico, abitata dagli artisti e abitata dagli operatori e le operatrici. Siamo l'estate della ripresa, quindi c'è anche questo fiorire e forma anche di sostegno alla ripresa culturale, appunto per tutti, per il pubblico, finalmente per ritrovarci nei luoghi culturali e della città, per gli operatori e le operatrici, per gli artisti e le artiste che, insomma, sappiamo, insomma, veniamo da 2 anni non facili, un po' difficili, e abbiamo bisogno sull'onda anche del pensiero libero e del pensiero critico, che è la sottotraccia, ecco, il sinonimo con cui vogliamo connotare Bologna Estate, è appunto sarà un'occasione molto bella in cui ritrovarsi, con una programmazione in cui quest'anno la musica, insomma, avrà un ruolo molto importante, insieme al teatro, insieme alla danza, insieme alle conversazioni, ai momenti anche di approfondimento con autori e autrici, alla programmazione per bambini, andando anche a scoprire o riscoprire luoghi della città, anche inediti, e della città metropolitana. Alcune new entry ce le puoi dire così al volo? Sicuramente la Tettoia Nervi, che è la grande piazza coperta che abbiamo intitolato a Lucio Dalla. Sono 6.000 metri quadrati alla Bolognina e a fianco al Liber Paradisus, e da quest'estate li inaugurerà con una fitta programmazione di musica, concerti, spettacoli e tanti appuntamenti anche tra lo sport e le tante sorprese anche che lì potremmo vivere. Diventa una nuova piazza coperta culturale della città. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e buona estate, Elena. Buona estate a te, ci ritroviamo prestissimo.